La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, qui in diretta dai studi di Roma, per una volta ogni tanto ci mancavo da Roma da un po' di tempo, in diretta da Roma alle 16.30 primi e 49 secondi, Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazio per l'ascolto come sempre in diretta o in podcast. Se volete intervenire all'argomento oggi diamo una rinfrescata con un nuovo studio su noi e le tasse in Italia, compariamole con 29 paesi. E perché dobbiamo mettere alla prova quello che ci sentiamo ripetere in questa stagione politica nella quale ci si dice piantiamola di lamentarci perché le tasse stanno scendendo come è noto, e quindi è finito il tempo in cui c'era il carico fiscale oppressivo. No, questa seconda cosa la sto aggiungendo io, però insomma lo sapete che una delle dei refrain del governo Renzi è dire noi abbiamo tagliato, c'è stata la solita questione che non è vero, basta vedere le stime ufficiali degli stessi documenti del governo, loro ti replicano no però no, questo non tiene conto gli 80 euro che secondo la legislazione europea sono più spese non meno tasse, insomma. Però al di là di questo, che ormai lascia il suo tempo questa polemica perché siamo sempre a una pressione fiscale del 43,4-43,5, pressione fiscale sono imposte e contributi, se mettete poi la somma di tutte le entrate aggiuntive patrimoniale one off eccetera eccetera, arriviamo al 48,7-48,8% del PIL rispetto a una spesa pubblica che è più del 50%. Però questa indicazione è notissima, ma non ci dà una fotografia davvero di in termini comparati come stanno le cose. Quindi abbiamo deciso di affrontare invece questa comparazione perché un centro studi che già più volte abbiamo invitato e che secondo me fa un lavoro meritorio, centro studi impresa lavoro, quindi lo trovate se lo cercate in rete, centro studi impresa lavoro, ha fatto esattamente, è il secondo anno di seguito che redige un rapporto, adesso vedremo con quali criteri, con quali indicatori, per quanti paesi, per darci una fotografia più approfondita della mera percentuale delle entrate sul PIL, che già vuol dire molto, per capire qual è la libertà fiscale vera all'interno dei diversi paesi europei rispetto all'Italia. E per parlarne, appunto, per spiegarci come è redatto questo studio, quali indici prende in considerazione e poi affrontare per ciascuno di questi i risultati dello studio, abbiamo con noi il presidente del centro studi Impresa Lavoro, che è un imprenditore, che secondo me va ringraziato anche per il fatto di avere capito che a un certo punto gli imprenditori devono mettere una parte delle proprie risorse, dei propri impegni per animare iniziative di studio, oltre che nell'impresa. Io credo molto in questo tipo di lavoro culturale dal basso, che appunto si chiama Massimo Blasoni. Ricorderete che l'avevamo già invitato per parlare del suo libro sulle privatizzazioni. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, Blasoni. Buon pomeriggio a voi e grazie dell'invito. Allora, cerchiamo di spiegare innanzitutto ai nostri ascoltatori su quali basi tecniche, come è fatto questo rapporto, quindi quanti paesi prende in considerazione e sulla base di quali indicatori. Sono 29 paesi europei. Quindi l'Europa allargata, insomma. Ecco. Un'Europa allargata dove quindi abbiamo stati dentro e fuori dall'Unione Europea e stati dentro e fuori dall'Europa. Sono classificati sulla base di 7 indicatori che proviamo a riassumerli subito, sono il numero di procedure, il numero di ore necessarie per pagare le tasse, il total tax rate, cioè insomma le tasse complessive sui profitti e i contributi a carico delle imprese, sul costo per pagare le tasse, perché il tempo richiesto a pagarle si trasforma in un costo, sulla pressione fiscale in percentuale del prodotto interno lordo e anche in termini dinamici sulla pressione fiscale in percentuale al PIL, vista però dal 2000 ad oggi, cercando di comparare questi paesi se ci siano stati incrementi o decrementi della pressione e poi pressione fiscale sulle famiglie. I dati sono tratti da sono dati Eurostat da un lato e poi tratti da Doing Business, il rapporto della Banca Mondiale. E sono dati, noi non vogliamo fare i gufi però, che indicano in maniera palese, incontrovertibile una cosa, cioè il nostro paese è vessato, clamorosamente vessato dalle tasse e aggiungiamo subito, come dire, l'esito finale. Questa classifica purtroppo abbiamo la tristissima ultima posizione, nel senso che l'indice della libertà fiscale 2016, che mette insieme questi indicatori, ci vede all'ultimo posto. Ed è un ultimo posto terribile se ci pensiamo, per due ragioni. La prima perché questo insieme di imposte, lo dico da imprenditore, il tasso imposto, lo dico da imprenditore, distrugge la vita delle imprese. Se mi permette, accenno subito al total tax rate. Cioè, mettiamola così, in Italia un imprenditore paga il 64,8%, ripeto, lo dice Doing Business, dato validato a livello internazionale, un imprenditore del Regno Unito paga il 32%. Allora, è difficile pensare che produrremo crescita in questo paese sapendo che i nostri figli difficilmente li assumerà la pubblica amministrazione e molto più facilmente le imprese. È difficile, dicevo, dar corpo a una ripresa che parta dall'attività delle imprese e che si basi su un'imposta così alta. Aspetti, riepiloghiamo un po' di altri numeri sul total tax rate, che ripeto è il totale dell'imposizione sul reddito lordo delle imprese, no? Allora, l'Italia abbiamo detto è 64,8%. 64,8, andiamo a ritroso. La Francia 62,7, il Belgio 58,4, l'Austria 51, ma poi cominciamo a scendere. Slovacchia 51,2, Repubblica Ceca 50,4, Spagna 50, Grecia 49,6 e poi scendiamo al 49,4 dell'Estonia, 49,1 della Svezia, Germania 48,8, ma c'è ben altro, Ungheria 48,4, Lituania 42,6, Romania 42, Malta 41,3, Portogallo 41, Paesi Bassi 41, Polonia 40,3, Finlandia 37,9, Lettonia 35,9, ormai termino, Regno Unito 32, Slovenia 31, Svizzera 28,8, Bulgaria 27, Irlanda 25,9, Danimarca 24,5 e chiudiamo con Cipro al 24,4, Lussemburgo 20,1, Croazia 20. C'è da chiedersi per un imprenditore se non sia, lo dico con amara ironia, proprio un peccato essere nati in Italia e non, che ne so, nel Regno Unito o in Svizzera, dove le tasse sono la metà. Ma il problema mi lasci dire che io questo qui l'ho voluto che facesse un po' di numeri più esteso per questa relatoria, perché questa è una polemica da anni fortissima nel nostro paese verso gli imprenditori che scelgono di andare in altri ordinamenti. Qui non stiamo parlando, come è evidente, di paesi che sono paradisi fiscali, capite? Qui stiamo parlando di ordinamenti che hanno semplicemente e legittimamente imposte di prelievo sul reddito lordo delle imprese, come avete sentito, in una forbice amplissima. Allora, poiché spesso vi raccontano, cari ascoltatori, per esempio, che paesi come l'Irlanda ci sottopongono a una pressione, a una concorrenza fiscale sbagliata, inaccettabile, impropria, corsara, ci sono molti grandi quotidiani e testate di informazioni che dicono una cosa simile. Io continuo a battere su questo punto, cari ascoltatori. L'Irlanda ha avuto nel 2008-2011, poi con l'esplosione della crisi dell'euro sovrano, l'esplosione della sua bolla bancaria e immobiliare. Si è sottoposta a un programma vincolato di aiuti europei che l'ha vista tagliare la spesa e l'ha vista riassorbire poi una parte già molto consistente degli aiuti di Stato, gli aiuti europei andati al risanamento delle banche che erano esplose, ma una cosa l'ha tenuta ferma di fronte alle richieste franco-tedesche e italiane che dicevano con la pistola puntata alla tempia: cari irlandesi, adesso la piantate lì di avere l'aliquota al 25% sulle imprese, la dovete alzare. Gli irlandesi, convergenza generale di tutte le forze politiche, hanno detto: manco per idea, noi questa imposta la teniamo bassa perché abbiamo avuto dimostrazione negli anni che conviene tagliare la spesa piuttosto che alzare le imposte sulle imprese, perché noi abbiamo attirato imprese da tutto il mondo grazie a questa pressione fiscale del 25%, che è la bellezza di 40 punti percentuali inferiore alla nostra. Secondo voi, cari ascoltatori, dove sbagliano gli irlandesi? Perché avremmo ragione noi invece a continuare a dipingerli come poco virtuosi quando loro attirano migliaia di imprese da tutto il mondo, cioè posti di lavoro e crescita più elevata? A me sembrano che abbiano ragione loro. Mi scusi se ho fatto questo inciso, ma perché è un classico qui quando parliamo di imposte, imprese che fuggono, delocalizzano e così via. Lì cresce un paese, non è che sono gli imprenditori che si mettono i soldi in tasca. Almeno questa è la mia opinione. E questo è il dato da sottolineare, cioè una bassa imposizione fiscale sulle imprese non genera la ricchezza all'imprenditore, genera la ricchezza in quel paese. Oggi noi abbiamo un tasso di occupazione che, malgrado qualche dato in miglioramento, rimane bassissimo. Il nostro 56% in realtà è 10 punti sotto la media europea e 15 punti sotto la media tedesca. Allora, esatto, se ci sono pochi posti di lavoro, se il paese cresce sotto l'1% e avrebbe bisogno di altri 10 o 15 anni a questi livelli per arrivare per tornare al livello di PIL reale pre-crisi, è anche perché le imprese faticano a sviluppare. Allora, possiamo immaginare una politica diversa che non sia il frutto di decido quanto spendere e sulla base della mia decisione di spesa genero il prelievo fiscale, ma immaginare invece un'inversione, una sorta di rivoluzione copernicana per cui partiamo da un equo prelievo e poi la spesa pubblica si fa sulla base di quell'equo prelievo, non è assolutamente un'idea peregrina, ma un'idea che sfugge alla nostra politica. Perché? Perché il tasse spendi rimane il leitmotiv purtroppo di troppi governi, sulle imprese da un lato, ma anche sugli italiani in generale, perché ricordiamoci, l'ha citato lei prima, abbiamo un'imposizione su PIL che è del 43,5%. Allora è divertente fare una retrospettiva velocissima storica. Durante il fascismo la pressione su PIL rappresentava, il prelievo ovviamente fiscale su PIL, rappresentava il 18%. A metà degli anni 70 aveva raggiunto il 22-23%. Siamo arrivati al 43,5% a dimostrazione che il moloch dello Stato, la macchina dello Stato, si è allargata enormemente e molto più che in altri paesi. Uno, perché da noi l'imposizione cresce, ma in paesi rispetto al 2000, ad esempio, paesi come la Germania o il Regno Unito o la stessa Svezia, no, che nella Vulgata passa come il paese dei servizi pubblici, in realtà la pressione fiscale è scesa, dicevo, nel paese cresce, ma la invito, se mi dà un minuto ancora, a fare questo giochino. Allora, noi abbiamo pressione su PIL, parlo di cittadini a questo punto, del 43,5. In Germania questa, il dato è OCSE, è del 39,4, nel Regno Unito del 34. Allora, abbiamo provato a chiederci, ma se gli italiani pagassero le stesse tasse dei tedeschi, cioè pagassero tasse su PIL di quantità analoga, beh, pagherebbero 54 miliardi in meno se le pagassero come i tedeschi, se le pagassero come gli inglesi, come gli abitanti del Regno Unito, pagherebbero 138 miliardi in meno, cioè una cifra di gran lunga superiore al deficit. Va ripensato il sistema fiscale, l'intermediazione politica va ridotta, perché così sicuramente non funziona, i dati sulla crescita ce lo dicono palesemente. Andiamo a vedere in questi ultimi 14 anni, cioè da che c'è l'euro, per chi fa parte dell'euro, poi qui ci sono anche paesi dell'Unione Europea che non ne fanno parte. Come ricordava lei, i paesi che hanno visto la pressione fiscale diminuire di più, incredibilmente in testa alla graduatoria c'è la Svezia, che l'ha diminuita praticamente del 6%. Esattamente, sì. E questo contro, come dire, l'opinione comune che immagina la Svezia prodiga in servizi pubblici che dovrebbero essere, come dire, assorbenti di un'enorme quantità di risorse, che invece riesce a ridurle. Ma anche l'Inghilterra, io non ho il mito certo degli inglesi, però in qualche misura sono riusciti a ridurre la spesa pubblica e nel contempo a ridurre anche l'imposizione fiscale, a dire che se si spende bene la riduzione della spesa è possibile mantenendo i servizi ed è possibile contestualmente la riduzione ovviamente del peso delle imposte, però quel paese cresce. Ricordiamoci una cosa, che dei primi paesi europei sotto i livelli di PIL 2007, siamo solo noi e la Spagna, Francia, Inghilterra, Germania da tempo hanno superato quel dato, con una piccola differenza però, che noi l'anno scorso siamo cresciuti di 0,6-0,8%, la Spagna del 3%. Allora, non cresciamo, rimaniamo al di sotto del PIL, incrementiamo il debito pubblico che è comunque cresciuto di una trentina di miliardi l'anno scorso e abbiamo un peso fiscale di questo tipo. Beh, io non voglio fare pronostici di default, però francamente è difficile essere ottimisti. Allora, vediamo un altro aspetto, perché fin qui abbiamo parlato di imprese, però uno degli indicatori che voi avete scelto per fare la comparazione è quello dell'equivalente, cioè il tax rate, però sulle famiglie, perché a questo punto allarghiamoci anche un secondo alla vita di tutti noi come persone fisiche. Di qui cosa si ricava? Ma si ricava che pensando a un nucleo tipo di due genitori che lavorano con due figli a carico, diciamo la famiglia tipo, in realtà ci troviamo in una condizione che rimane di una potentissima tassazione. Cioè siamo al quart'ultimo posto col 28,28%, ma ricordiamoci che la stessa famiglia in Svizzera avrebbe una percentuale sul reddito familiare lordo di tax rate che non supererebbe il 13,47%. Quindi non è nemmeno, cioè, del 50% inferiore, insomma. Sì. Quindi non è nemmeno che si sia fatta una politica, come dire, contraria al mondo imprenditoriale ma favorevole alla famiglia, tutt'altro. Peraltro anche contraria al lavoro, alla politica fiscale di questo paese, perché ricordiamoci che tra il 2014 e il 2015 è cresciuto anche il cuneo fiscale, che è passato dal 48, al 49, ha guadagnato, come dire, ha guadagnato, ma purtroppo perniciosamente negativo, un punto. Quindi crescono le tasse sul lavoro, sulle famiglie, sulle imprese, crescono le tasse sul risparmio, perché ci sono anche, come dire, le tasse sulle tasse. Noi paghiamo, come dire, le imposte sul nostro reddito, poi andiamo a investire per comprare una casa, o andiamo a investire perché compriamo dei banali prodotti finanziari e ci troviamo tassati nuovamente. C'è uno studio che pubblicherà Panorama la prossima settimana, che guardi, le anticipo, l'hanno fatto i nostri ricercatori, dice una cosa purtroppo banale ma anche terribile. Le tasse sul risparmio nel 2015 erano 6 miliardi e 900 milioni, sono diventate 15 miliardi e 100 milioni nel 2015, cioè più 8,2 miliardi tasse sulle transazioni finanziarie, stop in tax, imposte di bollo, insomma lo Stato dove può preleva denaro dalle nostre tasse. Oh, e allora qua ci fermiamo per un minuto, perché è esattamente questo il punto su cui riflettere adesso con i nostri ascoltatori. Mentre, cioè, voi dovete capire, cari ascoltatori, mentre vi ripetono che il problema sono gli evasori in Italia, che io non voglio difendere, però vorrei anche, insomma, che ragionaste un secondo che non è vero. Il problema, ai fini degli effetti di crescita, è come si interviene su un sistema fiscale. Cioè, se si pensa, qui naturalmente a seconda di come si ragioni, per scuola economica di appartenenza e per opinione politica, anche per fede politica, a seconda di come si ragioni di dovere provocare degli effetti indotti su un organismo economico, su una società produttiva, sulla distribuzione dei redditi, propende a intervenire fiscalmente accentuando la pressione in un senso o diminuendola in un altro, tra imposte sul reddito delle persone fisiche, imposte sul reddito delle società, delle persone giuridiche, imposte patrimoniali, imposte indirette. A seconda di quale leva si usa, si ottengono degli effetti che sono più o meno studiati la teoria della serie storica, degli effetti deliberati, che dipendono, se volete, per esempio, diminuite la tassazione sui redditi, volete privilegiare, per esempio, la creazione di flussi di reddito. E magari a quel punto ha senso che voi possiate, in presenza di forti riduzioni della tassa sul reddito, accentuare l'imposta sul patrimonio. Per paesi molto patrimonializzati e a bassi redditi, come nel nostro paese, per esempio, grazie al fortissimo tasso di risparmio delle famiglie, potrebbe avere un senso per alcuni dire tassare più patrimonialmente, ma tassare molto meno i redditi, al fine di voler realizzare uno smobilizzo dei patrimoni a favore dei redditi e dei consumi. Oppure potete diminuire la progressività dell'imposizione sui redditi, compensarla con qualche intervento sui risparmi, e a quel punto ritoccare invece le imposte indirette, che come noto sono regressive. Ma a seconda di quello che voi abbiate in testa, ha senso dosare le diverse leve. C'è un solo paese che contemporaneamente, in tutti questi anni, ha alzato contemporaneamente le imposte sui redditi delle persone fisiche, delle persone giuridiche, le imposte indirette, l'aliquota IVA, e le imposte patrimoniali, sia sugli immobili che sul risparmio, sui fondi previdenza complementari privati, eccetera, eccetera. Questo paese è l'Italia. Facendo così, è riuscito ad abbattere sia i patrimoni, sia i prezzi dei valori immobiliari sulle case, sia i redditi, sia i consumi. Ma perché è l'unico paese che pensa che il fisco serva solo a rispondere alla sete dello Stato, non che a seconda delle leve che si impugnano si determinino degli effetti conseguenti. Fermiamoci per un minuto e poi vediamo cosa ne pensa Blasio. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta qui con Massimo Blasoni, fondatore e presidente del Centro Studi Impresa Lavoro, imprenditore. Stiamo parlando dell'Indice della Libertà Fiscale 2016, che è stato redatto dal Centro Studi Impresa Lavoro, e con diversi indicatori che paragonano 29 paesi europei, quindi membri dell'euro e non dell'euro, graduatoria finale. Ponderando i diversi indicatori, l'Italia arriva ultima con l'indice 39 rispetto a Svizzera, che sta a 75 come indice della libertà fiscale, dopo la Svizzera, l'Irlanda, l'Estonia, la Romania, la Lettonia, eccetera, eccetera. La Germania è comunque con l'indice 52 rispetto al nostro 39, il nostro diretto concorrente manifatturiero, da molti dipinto come l'unno che ci impone le sue regole, come se l'aumento popolare di Vicenza fosse fallito per colpa dei tedeschi, per così dire. Ma molti giornali lo scrivono, per carità di Dio. Che ridere. Allora, abbiamo visto come il nostro paese abbia avuto una singolarità in questi anni. Mentre altri o abbassavano il prelievo complessivo, ma comunque utilizzavano le diverse leve fiscali, imposte sui redditi, imposte sui patrimoni, imposte indirette, per determinare finalità più o meno commisurate alla specificità del mix economico, dei livelli di patrimonializzazione e di reddito, noi abbiamo alzato tutti i tipi di prelievi e così abbiamo strangolato un po' tutti. Come mai, secondo lei, Blasioni? Cos'è? Ignoranza basilare degli effetti delle diverse leve fiscali? Non credo proprio, perché i ministri che si sono... Guarda, adesso non vorrei prenderla da lontano, cercherò di essere brevissimo, però direi che dalla stessa Costituzione, la fortissima presenza anche di rilevanti partiti di sinistra abbia fatto sì che nel nostro paese, non voglio dire che ci fossero contaminazioni al socialismo reale, però cioè, oggettivamente ci fosse una presenza dello Stato molto rilevante. Allora questo perimetro dello Stato così vasto non poteva che nutrirsi di due cose: imposte e tasse, che a questo punto erano dirette e indirette, ma anche debito pubblico. E quindi la politica, per gestire i processi e pretendere di redistribuire le risorse, aveva bisogno di quantità di denaro infinite. Però creare i posti di lavoro con i forestali che non andrebbero assunti, o con l'inefficienza della macchina pubblica, o avere uno Stato che mette le mani in economia, che non presidia, vigila e regola, ma che pretende anche di operare, ha generato degli sfasci incredibili. Solo che a risolvere questi sfasci non si è adottata la misura contrapposta di ridurre le tasse, provare a ridurre il perimetro dello Stato, ma di volta in volta si è rilanciato aumentando il debito, che continua ad aumentare, e aumentando le imposte. Nei cittadini c'è poca consapevolezza. Lo sa che i cittadini hanno oramai incamerato l'idea, che del resto ha scritto oramai anche su Sole 24 Ore tutti i giorni, che in crisi, con questi anni di crisi che abbiamo alle spalle, chi predica il taglio della spesa è un imbecille, un ignorante, perché non sa che il taglio della spesa pubblica significa una diminuzione del PIL. Noi dobbiamo difendere la spesa dello Stato, perché la spesa dello Stato genera ricchezza, è tutta orientata a pagare in tempo ovviamente i fornitori pubblici, come è noto, non ha usato per decenni un numero di precari così sconsiderato nella scuola, e chi parla di ridurre queste cose ovviamente vuole semplicemente far diminuire il PIL, è un ideologo. Questo è ciò che è stato ripetuto in maniera sempre più incessante dai media italiani, compresi quelli degli imprenditori. Dobbiamo avere la forza di spiegare che così non è, che quando l'ha citato lei lo Stato, allora mettiamola così, quando un cittadino o un'impresa debbono pagare le tasse, se non lo fanno, quella gabella non pagata determinerà immediatamente l'aggressione di Equitalia, le ganasce fiscali e quant'altro. Lo Stato paga quanto vuole, perché continua a pagare a 144 giorni i suoi debiti ed è arrivato di nuovo a 70 miliardi di debito nei confronti delle imprese, con un costo sulle imprese indiretto che è di 5-6 miliardi, perché quelle imprese per fornire sono dovute andare in banca, anticipare i crediti e quant'altro. Ma al di là di questo rimane un dato di, come dire, di minorità del cittadino rispetto allo Stato. Proviamo a metterla così, facciamo un esempio. Nessuno di noi crede che l'INPS sia un ente che gestisce bene i nostri soldi. L'INPS oggi ha 25.000 immobili, sono valutati 3 miliardi e 200 milioni, anche l'anno scorso è riuscito a perdere 100 milioni di euro dalla loro gestione. Aveva un patrimonio netto 5 anni fa di oltre 40 miliardi, è sceso a 1 miliardo e 6 quest'anno, malgrado la ricapitalizzazione di 25 milioni, cioè a dire che l'INPS perde, tra gli assegni pensionistici che deve pagare, i contributi versati, più di 11 miliardi all'anno, che pesca di fatto nella fiscalità generale, ha 104 miliardi di crediti, di sofferenze, diciamo così, paragonandole a quelle bancarie che non riesce a recuperare. Però, e vado al dunque, se io domani mattina non volessi più pagare i contributi INPS perché preferisco rivolgermi al mercato privato, non lo potrei fare. Allora bisogna spiegare ai cittadini che lo Stato non è un molo pervasivo, ma che forse abbiamo il diritto di chiedere che sia meno esteso e di chiedere che con efficienza i nostri soldi, come dire, possiamo talvolta gestirli direttamente, e che l'attività di redistribuzione deve avvenire in alcune situazioni, come dire, a sostegno dei più deboli, ma non deve essere il tentativo di raccogliere consenso, non deve essere il tentativo di risolvere i problemi dell'occupazione in maniera del tutto, come dire, errata. No, ma anche perché poi, voglio dire, la finalità a sostegno dei più deboli nel nostro paese, noi in realtà uno strumento universale di lotta alla povertà non ce l'abbiamo, cioè la redistribuzione la facciamo, come nel caso degli 80 euro, a favore di chi magari un reddito ce l'aveva, ma non erano i pensionati al minimo e non erano coloro che sono sotto la soglia di incapienza. Quindi io contesto anche il fatto che la redistribuzione pubblica serva davvero a chi ne ha bisogno, perché i fatti dicono che non è vero, infatti le soglie di povertà povertà relativa sul sono cresciute in questi anni. Quindi è una questione politica. Spesso la redistribuzione è fatta strizzando l'occhio quando le elezioni si avvicinano, come testimoniato dal fatto che i redditi di cittadinanza delle città e delle regioni si sprecano sotto elezioni annunciate. Allora, grazie a Massimo Blasoni. Continuate su Radio 24. Appuntamento con me, Alessandro Milano, domani mattina alle 8:15. Attenti a noi due.